No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è tra... gioia. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età. Se non ci fossero i grillini in Parlamento sarebbe un mortorio. Un mortorio, caro David, un mortorio sarebbe. In genere per il circo si paga il biglietto, no? E noi lo paghiamo anche caro il biglietto, perché paghiamo noi i deputati. Lo paghiamo perché paghiamo 12.000 euro al mese questo manipolo di deputati. Però se non ci fossero loro, il dibattito sarebbe piatto, sarebbe una, come dire, applausi, ipocrisie. Però al di là di quello che c'è oggi, posso dire solo una cosa? No. Abbiamo tempo? Ma ci sono 2 ore e mezzo. Ma chiudiamo alle 22. Aspetta, senti che paura. L'ordine dei giornalisti del Lazio condanna senza appello la pratica dell'uso di telefonate tranello. Ah, ecco. Fatte utilizzando la voce di un imitatore. Una vera truffa che nulla ha a che fare con i metodi, gli strumenti, la deontologia del fare informazione. Ha ragione. Cioè. Aspetta, ma ha ragione un cazzo, aspetta. Non si tratta di scherzi, ma di una sostituzione di persona finalizzata che viola i principi della privacy e del rispetto dei cittadini utenti. Anche perché, al termine della telefonata, lo scherzo non viene rivelato all'interlocutore. Non è la prima volta che il programma radiofonico La Zanzara, condotto da giornalisti professionisti, ricorre a queste pratiche, spacciandole per scoop. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha incaricato il Consiglio di Disciplina di aprire un fascicolo in proposito. Stanno a ingabbiare, veramente al massimo ci ingabbiano insieme. No, uno è singolare o è plurale come conduttore? Mamma mia, sei diventato veramente un cagasotto. Io voglio però la cella, quella voglio la cella singola, se possibile. No, io la voglio insieme a te la cella. Sì. Almeno lì non mi devi rompere il coglione. Cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Esatto. Comunque ho una paura tremenda, soprattutto perché ovviamente sono 2 anni e mezzo che facciamo scherzi e questi fenomeni, tra cui ci sono diversi amici, se ne accorgono solamente adesso. Merita una riflessione. Solamente adesso, amici miei. Vabbè, lasciamo perdere, che non frega niente a nessuno, va. Ma sarà arrivato qualche pizzino, no, da qualche parte, qualche telefonata, aprite un fascicolo. Vabbè, che vuoi fare? Quanta pazienza. Ma tu ti fai difendere dal professor Taormina? Ma subito, immediatamente. Io no. Senti, fammi sentire un po' di Figli delle Stelle, dai. Sì. Figli delle Stelle, Sibilia, il mitologico Sibilia. No, beh, stupendo. È un cretino. Senti cosa dice a Renzi, Ma l'ho sentito, è un cretino. Senti cosa dice a Renzi. L'hai definito un cretino, Caro sindaco di Firenze, nominato presidente del Consiglio, invidio molto, avete allergia alla verità, è la verità, è il sindaco di Firenze nominato presidente del Consiglio. Invidio molto la sua grande capacità di parlare tanto e non dire niente, invidio molto la sua capacità di dire una cosa e fare il suo esatto opposto, senza vergogna. Antani, sentite un po' Sibilia. Ieri hai detto un diverso atteggiamento verso la scuola, affrontare in modo diverso il rapporto verso la pubblica amministrazione, un fisco con connotati diversi, come se fosse Antani, mi verrebbe da dire. Lei è Padoan, figli di Troica. Hai capito il gioco? Qui litiga con la Boldrini, Sibilia. Sì, lo so, questo è divertente. Io mi aspetto che lei me lo dica. Io lo sento che vuole dirlo. Ce lo chiede l'Europa, su, me lo dica. Ce lo chiede l'Europa. Del resto, lei e Padoan siete figli di Troika. È spiegato, e lo spiego subito perché siete figli di Troika, perché diversamente non si capisce il motivo. Concluda. Per cui già il 7 gennaio 2014 il nome Renzi compare in un documento della UBS, la banca più influente del mondo dopo Barclays, che illustrava le linee programmatiche che lei è assicurata Presidente del Consiglio. Concluda, è già oltre il suo tempo, concluda. Mi ha interrotto. Concluda. 12 volte, grazie, sono oltre il tempo. Concluda. Va bene, io concluderò grazie. Perché altrimenti finisco. Grazie, per il concluda. E continua la guerra tra i 5 Stelle e il Presidente Boldrini. Addirittura oggi i 5 Stelle annunciano di voler portare in tribunale la Boldrini per alcune frasi dette sul movimento, gli stupratori, i potenziali stupratori e il movimento eversivo, no? Quelle frasi dette dalla Boldrini. Sentiamo la Lombardi, però andare in tribunale per una cosa di questo tipo, pure i 5 Stelle, dai, su, lasciate perdere, ha sbagliato la Boldrini all'epoca, lasciate perdere i tribunali, i processi, dai. Stiamo presentando individualmente ogni deputato del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle una querela per diffamazione per averci dato, noi che siamo rappresentanti dei cittadini regolarmente eletti attraverso democratiche elezioni, degli eversori. Intanto in Uganda, caro Parezzo, in Uganda un giornale pubblica una blacklist di 200 gay del paese con nomi e cognomi, col titolo Scoperti. In Uganda, 200 gay scoperti dopo aver, come sai, dopo aver ratificato una legge che punisce fino all'ergastolo gli atti omosessuali. Beh, e anche la propaganda. Beh, vorrei dire all'onorevole, anzi all'ex onorevole signora Vladimir Luxuria, Vladimiro Guadagno, detta Luxuria, perché adesso invece di andare a Sochi dove ci sono tutte le telecamere non fai un bel viaggetto nell'Uganda di Museveni dove quando arrivi ti prendono e ti sbattono in galera per 3 mesi? Beh, ma magari lo farà in Uganda, deve andare in Uganda la Luxuria, in Uganda. E basta con queste buffonate. Anche tu devi fare la zanzara da Uganda. Voglio vedere cosa succede dopo 2 minuti di trasmissione. Anzi, dopo la sigla voglio vedere cosa succede. Dopo la sigla solo. Ma che c'entra? Io mica vado a fare le buffonate a Sochi. No, perché tu fai Fermi tutti. Fai il difensore dei gay dallo studio di Radio 24. E ma che c'entra? Io condanno le leggi. Ma no, le leggi... lui fa nel salotto di Radio 24 fumando il sigaro e bevendo whisky. Dici, io sono. No, veramente io whisky non lo bevo, come sai non lo bevo. Ma è con noi Matteo Salvini, grande capo della Lega Nord, segretario della Lega Nord, buonasera. Buonasera Beppe, sull'Uganda esattamente il post che ho messo su Facebook. Che hai fatto? Ieri. Che è successo? Ah, Luxuria invade in Uganda. La stessa cosa, che è facile andare dove ci sono le telecamere, ma addirittura nella parte controllata dalle milizie islamiche in Somalia c'è la pena di morte per gli omosessuali, sì. Beh, quindi mi piacerebbe che gli indignati di professione andassero anche in quelle terre a rivendicare giustamente dei diritti, perché la legge ugandese è una legge fuori dalla grazia di Dio. Beh, questo meno male, meno male che lo dici, e questo va benissimo, ovviamente. No, ma ci mancherebbe altro. Luxuria dovrebbe andare in Uganda, capito? Molto chiaro, in Uganda, qual è il problema? In Uganda a fare una bella manifestazione, perché non le Iene non mandano Luxuria in Uganda con un bel aereo a fare una manifestazione? Parenzo, non capisco perché questa cosa qua non va bene. Ma no, ma io cioè, voglio dire, i radicali anni fa... Oddio, costi radicali, si è attaccato con i radicali. Mandarono Maurizio Turco nella città ma di ma cosa Hanoi, c'entra? Cosa c'entra a adesso? A sventolare la bandiera americana e lo arrestarono. Scappato, si fece arrestare. Va bene, mamma mia. Il problema ce l'abbiamo in casa, non in Uganda. È l'Italia che è un paese occupato da potenze straniere. Quindi da chi è occupato? Da quali potenze straniere, Salvini? Da quali potenze? Beh, voglio dire, voi pensate che Renzi parli in autonomia di pensiero e di parola? Cioè, Renzi è come, possiamo fare un paragone, Renzi è come, che ne so, come la Repubblica Sociale Italiana durante il nazismo? No. Beh, come no? Quando ero avevo un pupazzo quando ero piccolo che era molto simpatico, divertente, potevi registrare quello che poi lui andava a dire. Renzi dice esattamente quello che la Merkel e Bruxelles vogliono che lui dica e soprattutto faccia. E beh, come Mussolini, come Mussolini durante la Repubblica Sociale Italiana. No, mi puoi far dire come Mussolini. Beh, che ma non come, regime... non come Mussolini in quanto regime fascista. No, in questo senso, mica come fascista. Sto dicendo, tu stai dicendo, l'Italia è uno stato fantoccio? È uno stato fantoccio. L'Italia è occupato, non ci sono i carri armati, ma le banche, l'euro e lo spread fanno più male dei carri armati, quindi che siamo occupati militarmente e economicamente da potenze straniere che ci stanno spennando. Non c'è dubbio, dici tu. È chiaro tu. No, senti, però tu stai facendo facendo questo tour insieme al professor Borghi Aquilini. Allora, sul non euro. Non vorrei insistere troppo su un euro perché tanto tu ne parli ogni giorno. Però non è che per caso vuoi candidare il noto professore Borghi Aquilini, non lo dico ironicamente, è anche un mio amico peraltro, al Parlamento Europeo, però dillo chiaramente, perché secondo me invece qualche pensiero di candidare Borghi ce l'hai o no? No, a me farebbe molto piacere, ma non penso che gli interessi, gli cioè, piace io fare. Glielo chiederai. Il professore, non gli faccio questo torto perché. Beh, ha detto che ti farebbe piacere. Mettendo a disposizione gratis quelle sue competenze, anzi. Invito agli ascoltatori bastaeuro.org e si scarica tutto quello che si può sapere sul futuro senza euro, che è un futuro veramente migliore del presente di oggi. Roseo. No, non penso che candideremo Cruciani, segretario, avete le stesse idee. Mi piacerebbe, ma non penso che farei la sua fortuna. È molto più libero e sta molto meglio fuori dai palazzi della politica. Però hai detto ti piacerebbe. Sicuramente è uno che ha conosciuto l'euro, che ha fatto i soldi con l'euro, con la finanza e con l'euro, e quindi meglio di tanti altri può spiegare perché adesso questo euro si sta rivelando. Ma davvero sei convinto che senza euro sarebbe il sol dell'avvenire, cioè sarebbe una sorta di Eden universale? Non è che senza euro saremo tutti alti, biondi, ricchi, simpatici, intelligenti e senza più malattie. Sicuramente questo euro ci sta portando nel burrone. Quindi evitare di ficcarsi nel burrone è cosa da persone di buon senso. Fuori dall'euro, un'uscita concordata d'Italia, Francia, Spagna, delle regioni del sud Europa, rilancia il lavoro, Bossi e Tosi, che non sono due, cioè uno la vecchia Lega, diciamo, il vecchio patriarca, e l'altro. Appunto, abbiamo fatto un congresso, c'è una Lega che corre. Cioè, comando io. Cruciani, ma sai qual è la seconda città dove ho più contatti su Facebook in Italia? Qual dopo Milano? Qual è? Roma. E beh, che c'entra questo? Perché le tematiche del lavoro, dell'economia, cioè non del sono futuro, solo della Lega, della fiducia, sono da nord a sud. Però la mia domanda era questa: ci sono due della Lega, uno molto importante nel passato e uno nel presente, che dicono che non si può uscire dall'euro, sostanzialmente bisogna essere più moderati. Dicono che è difficile, certo che è difficile. Però tu dici il congresso l'ho vinto io e la linea è questa qua, giusto? Questo è. Beh, ma la linea del 50% degli italiani, che solo la Lega lo dica nel Parlamento è un conto. Bossi e Tosi si convinceranno anche loro leggendo il libricino su bastaeuro.org. Allora, traffico, torniamo subito. Buona Padania a tutti! La Zanzara. È ancora a casa, Emo. Una notizia drammatica per chi viaggia in Cina, caro Parenzo, drammatica. A Pechino hanno chiuso la città bordello dove il business del sesso valeva 6 miliardi di euro. No, ma come? Ma sti cinesi, guarda, sono matti. Ma pensavo fornissi notizie allarmanti riguardo allo Yen. Allarmante per esempio era anche il fatto che hanno svaligiato tutto l'archivio video della cicciolina, cioè una sorta patrimonio culturale dell'umanità. Salvini, fate questa battaglia in Europa anziché dire questa roba del basta. No, però volevo chiedere a Salvini una cosa. Prepari la penna e la carta d'identità, perché dal 29 marzo cominceremo a raccogliere le firme per cancellare la legge Merlin e regolamentare e tassare la prostituzione. Beh, Parenzo però non è tanto della partita. Ma è uno di quegli ipocriti che fa finta che non ci sia notte, giorno. No, ma lui è favorevole. Guarda, io sono favorevole. Ah, favorevole. Allora l'aspettiamo da fine marzo a firmare per questo. Però lo sai che io mi sto no euro e no prostitute sulle strade. Questa è la nuova linea della Lega. Però io volevo dire una cosa cercheremo di cancellare anche la riforma Fornero sulle pensioni. Quello più problematica. Però volevo dire quello va bene. Ma bisogna lavorare migliaia di vittime. bisogna lavorare fino a 70 anni, basta, cosa la formula. Ma lavoraci te, ha fatto fin troppo poco. Fino a 70 anni. Io fino a 70 anni, perché? Ma anche tu dovresti lavorare fino a 70 anni. Qual ma è guarda, io ho incontrato il dottor Caprotti, patrono dell'Esselunga, che ha 88 anni. Appunto. È più sveglio di te, di me messi insieme. Non c'è dubbio. Ma dipende, a lui piace. C'è gente che a 65 anni, giustamente, ne ha le palle piene e non ne può più. A 65 anni di contributi. Vabbè, ma, ma che c'entri? I contributi a 50 anni ci vanno in pensione, dai, Matteo, non è questo il punto. Comunque, guarda, che sul no euro, devo dire la verità, caro Parenzo, ti sorprenderò. Però alla fine, dai e ridai, siccome nessuno ha la ricetta esatta, ma non è che veramente quello è il problema. Mi sto convincendo quasi pure io, Parenzo. Te lo dico, mi sto quasi convincendo. Bravo. Allora, voglio dire però una cosa a Salvini. Che è questa? Guarda. Ma guarda, io perché non ho pregiudizi, guarda, capito? Non avevo dubbi, guarda. Allora, io non sono uno che non ha pregiudizi. Voglio chiedere una cosa, siccome che funziona? Parenzo dice che l'euro è una moneta che funziona, fa bene all'economia, no, Parenzo, fa bene al lavoro. Parenzo dice che senza l'euro io siamo... dico forza Bruxelles, io spero che Bruxelles ricoveratelo, c'è l'ambulanza, ce l'avete l'ambulanza che va a prendere la gente a casa, Bruxelles sono in parcheggio, ecco. Io vorrei dire una cosa però, aspetta, ritorniamo sul discorso della Chieng un attimo. Allora, la Chieng è fuori dal governo, è sparita, d'accordo, ma per voi però è una fregatura questa, diciamo la verità, Matteo. È no, una ma sì, vi portava consensi, dai, vi portava per consensi. Noi è la conferma. Noi per un anno abbiamo detto, a volte con toni sguaiati che non andavano bene, non servivano, che era un ministro inutile in un ministero inutile. Dopo un anno c'è più il ministero, non c'è più il ministro. Ma questo vuol dire che non serviva una questo massa. L'ho detto anch'io. E va bene, per carità. Però è vero che un po' di consensi ve li portava. Avevate un'arma formidabile. Sei dispiaciuto. Dì la verità, sei dispiaciuto, Matteo, dai. Sono dispiaciuto per lei perché probabilmente verrà candidata alle europee e quindi la dovranno rifilare ai cittadini del Veneto. Beh, la devono votare, La devono votare però. Ma di gente che vota a scatola chiusa, soprattutto a sinistra. Hai visto che è cambiato sindaco della sinistra a Bergamo? Vabbè, Gori, che qual è il punto? È che è bello. Giorgio Gori. Giorgio Gori, milionario, abita in una villa cinquecentesca a Bergamo Alta. Sì, molto ricco. Allora, Reti Media, ha fatto i soldi, qual è il problema? Ma io ero rimasto alla sinistra vicino ai lavoratori, non vicino alle banche, alla finanza, ai milionari. Cioè, a banca, alla finanza. Questo ha fatto l'imprenditore della televisione, prima ha fatto il dipendente di Berlusconi, poi l'imprenditore della televisione ha fatto un po' dei soldi, se candida a sinistra. Tu dici Un po' dei soldi, un po' dei soldi. Questo mantiene te e me la metà degli ascoltatori per i prossimi vent'anni, se vuole. Vabbè, ti fa schifo pure Gori, dai, su, però. Beh, diciamo... E avere un altro concetto della sinistra. Detto questo, i voti perché della tu Lega vieni dalla sinistra sulla Chieng. Cioè, sei più di sinistra tu di Tosi, dici? Di Tosi, di Gori. Ah beh, fuori dubbio, alcune battaglie, lo stop ai centri commerciali che abbiamo fatto noi in Lombardia come regione guidata dalla Lega, Gori mai nella vita l'avrebbe fatto. Ma quali centri? Ci sono più, ci vogliono più centri commerciali qua. Comunque vabbè, Matteo, ma come ci vogliono più centri commerciali? Aspetta un attimo, fermi qua. Tosi ha denunciato una cosa gravissima, Report. Avrebbe pagato soldi pubblici per ottenere un filmino, un presunto filmino hard. Sarebbe, tu ci credi o no? Quello. Ci credi o no a questa cosa? Beh, io credo a Tosi, anche perché alcuni pseudo giornalisti e alcuni pseudo magistrati sulla Lega ne hanno fatte di tutte e di più, tranne poi riconoscere anni dopo che non era vero niente. Quindi io mi fido di uno dei sindaci più amati d'Italia, anzi giovedì pomeriggio alle ore 16 sarò con lui. Ma adesso non ci fare tutti gli appuntamenti. Sarò a Verona proprio giovedì pomeriggio. Ma se fosse vera questa cosa che qualcuno ha cercato di comprare un filmato, un presunto filmato hard di Tosi, che succede? Beh, se fosse fatto con denaro pubblico e al di fuori di ogni legge, al di fuori di ogni rispetto, qualcuno non dovrebbe rispondere, evidentemente. Io non, senti, ma la Guidi ha un conflitto di interessi, la Guidi, secondo te? Vedete voi, l'ha detto Fassina, sono pienamente d'accordo con Fassina. La Ducati, sei la con cosa Fassina. Che però più mi dà fastidio della dottoressa Guidi non è il conflitto di interesse che per sé è grave, ma il fatto che guida un'azienda che ha delocalizzato in Romania, in Croazia, in Argentina, vabbè, in ma India, perché che i lavoratori costano di meno. Ma certo, ma in Italia il problema è che in Italia costano di più. Il ministro dello sviluppo economico italiano che chiude in Italia per aprire in giro per il mondo mi preoccupa. Ma Caprotti l'ha incontrato? Che dovrebbe salvare le aziende italiane. Ma Caprotti è un leghista? Caprotti è un leghista o no? Ma Caprotti è un eroe, non so che cosa voti, però averne di Caprotti sarebbe un senatore a vita, uno finalmente serio. No, bisogna abolirli. Va abolita. Aspetto ai tromboni che abbiamo in Parlamento. Uno torno tra un attimo, ti chiamo tra un quarto d'ora. 800 24 00 24, ci devi essere assolutamente perché ti devo fare una domanda cruciale per il futuro mio e della Lega. No, anzi, io non c'entro niente. Tremont sta Gay. Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. La Zanzara. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Anche tu, anche noi te ne vogliamo, caro direttore, anche noi siamo qui, la Zanzara. Beh, cari amici, il personaggio non è molto conosciuto, però non vedo cartelli in giro, non vedo delegazioni in rotta verso l'Uganda. Sono andati a Sochi a fare qualche piccola manifestazioncina, qualche piccola robetta lì dove ci sono le Olimpiadi, senza rischiare troppo, se non qualche, che ne so, qualche caffè preso con due o tre poliziotti. Beh, qualche arresto, qualche ora di fermo, fermo lì. Di polizia. Ma quale fermo di polizia? Ma no, una cosetta. Dovrebbero gettarsi a pesce, dovrebbero esserci carovane di militanti verso l'Uganda. Lì però c'è la galera vera e non ci vanno. Perché c'è questo presidente che si chiama Museveni, il quale dice, la bocca, senti questa roba qui. Ma questa è gente che piace a te. No, non mi piace Museveni. La bocca è fatta per mangiare e per baciare. Il sesso orale omosessuale fa venire i vermi. Questo è Museveni. Ora dico, però, è l'Uganda però. Ma ho capito, è l'Uganda. L'Uganda, abbiamo relazioni con l'Uganda, sì. No, ma infatti io concordo con te con la provocazione. Dopodiché, ripeto, qualcuno in passato si fece arrestare nei paesi. Oddio, paesi non me ne frega niente. Museveni dice ancora: le lesbiche sono affamate di sesso a causa di matrimoni con uomini sbagliati. Ma è pazzo. Ma è bellissimo. Io lo trovo talmente comico, talmente. Ma che comico? Talmente comico, talmente surreale, cioè le lesbiche, senti qua, le lesbiche sono affamate di sesso a causa di matrimoni con uomini sbagliati. Guarda, ma gli unici che possono andare chi è che sostiene una cosa del genere? No, gli unici, io dico, che possono andare in Uganda. Chi è? Chi e è? Farsi arrestare dicendo a Matteo, che sarebbe quello che è fiorentino ma ora sta a Roma. Sì. Se loro andassero, noi radicali unici, liberali, liberisti, libertari, esperantisti, esperantisti sì, anche, sì, Pannella, sì, andassimo in Uganda mentre lui ha cacciato Emma da là, noi diremmo allora libertà in Uganda, dove sono più democratici del fiorentino Matteo. Beh, no, adesso, Emma. Più democratici, ma Marco, più democratici. Perché certo ha cacciato Emma da là e noi andiamo là allora a dire libertà. Hai capito? Ho capito. Va. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. La Camera vota la fiducia a Renzi, abbiamo una sola chance per cambiare. Semestre europeo, grande occasione, taglio del cuneo fiscale da 10 miliardi. Bersani torna in aula dopo la malattia, per lui applausi e affetto, un lungo abbraccio con Letta, anche il Premier lo ringrazia con un tweet. No di Forza Italia, apertura sulle riforme, ma subito la legge elettorale, Brunetta, i titoli del programma sono giusti, ma che c'è dietro? Insulti e ironie dei 5 Stelle, scambio di biglietti tra il Premier e Di Maio, Lombardi querela Boldrini e stasera l'Assemblea per espellere i dissidenti. Le previsioni europee sull'Italia, bene i conti pubblici, ma senza riforme la crescita resterà bassa, la disoccupazione continuerà a salire. Rischio caos in Ucraina, migliaia in piazza chiedono a Mosca di non essere abbandonati, blindati russi a difesa della flotta sul Mar Nero. Vibo Valencia, arrestati l'ex capo della Mobile e il suo vice, per l'accusa passavano a un clan informazioni sulle indagini, vicenda raccapricciante, scrive il giudice per le indagini preliminari. Bravo Matteo! Io sono appassionato da questi cantori di Renzi. Per esempio, l'amico Francesco Nicodemo, responsabile della comunicazione della segreteria. Beh, vecchio, vuoi che dici? No, ma aspetta, mi arrivano messaggi da presidi di scuola che mi scrivono un segnale bellissimo: il Premier che visita le scuole. perché va a visitare le scuole. Beh, vabbè, questo però effettivamente è una cosa nuova. Ma deve stare a studiare i dossier, non a visitare le scuole. No, ma dico, ma è una cosa nuova questa di un premier che comunque parte da là, dalle scuole. Vabbè, se va a visitare le scuole. Abbiamo svoltato allora. Comunque, vabbè, due o tre cose di Renzi, poi torniamo su Salvini. E due o tre cose di Renzi di oggi. Le citazioni, io non ne posso più delle citazioni. A un certo punto cita tipo, ma mi dicono Chesterton, una cosa del genere. Poi addirittura la canzone di Arisa. Io non ne posso più di queste citazioni, non ne posso più di queste citazioni, basta discorsi. Ma quanto dura poi sta fiducia? Due giorni e mezzo contro replica? Negli altri paesi tutto si risolve in poche ore. La fiducia basta, poi al lavoro, due giorni in Parlamento, per sentire delle parole inutili, inutili. Finisco con una frase di uno scrittore che io adoro, Chesterton. Ha scritto delle cose meravigliose in tanti livelli, però ce n'è una che mi rende triste. Cioè, il mondo non finirà mai per la mancanza di meraviglie. Il mondo finirà per la mancanza di meraviglia. Permettetemi di dire che questo sentimento è lo stesso sentimento che dovrebbe animare non per la bellezza artistica, ma per la bellezza di un paese che continua ad avere 5 milioni di persone che fa volontariato, che continua ad avere degli imprenditori che nonostante tutto sfidano la crisi e continuano a innovare, che continua ad avere la seconda economia manifatturiera. La meraviglia, mi dicono che ci può stare, dai, su, ci può stare un discorso così, la meraviglia. La gente però non ne può più di queste parole generiche, di queste robe così. No, sentiamo Arisa sul controvento, va, che pare che ci sia un riferimento non diretto pure alla canzone che ha vinto Sanremo, te pareva? Noi siamo qui oggi prendendo il vento contro, prendendo controvento, ma prendendo soprattutto il gusto di rischiare, in un momento in cui rischiare sembra difficile, per dire una cosa molto semplice. Raccomandati. Che c'è poi? Ah sì, perché il taglio del cuneo fiscale, che sono le tasse sul lavoro, eccetera, eccetera, prima era il 10%, poi adesso è diventato, in realtà intendeva i 10 miliardi, capito? Che ovviamente è meno del 10%, comunque, sentiamo. La riduzione. Nelle prossime settimane mostreremo la doppia cifra, che si riferiva ai miliardi, non alla percentuale, concretamente le forme. Effettivamente qualche mormorio. Vabbè, 800 24 00 24, siamo ancora con Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Senta Salvini, io non ho capito, Matteo, perché non si può fare il ministro se uno deve fare la mamma? Scusa, spiegami questa cosa qua, perché? No, fare la mamma è la cosa più bella del mondo. Beh, anzi, stiamo preparando per l'8 marzo, la festa della donna, un'iniziativa come Lega per gli asili nido pubblici e gratuiti. Ma come non in ho capito, non ho capito. Detto questo, se Renzi ha detto che lui in 3 o 4 mesi cambia il mondo, giusto? Ma più o meno non cambia il mondo. Riforma la pubblica. No, ma spiegami questa cosa della Madia. Spiegami. No. Allora, la signorina Madia è ministro della pubblica amministrazione. Sì. Che dovrebbe cambiare in 3 o 4 mesi. Vabbè, 3 o 4 mesi. Dicono essere incinta al 6° o 7° mese di gravidanza. Sì. Come fa in 3 o 4 mesi a cambiare una macchina complessa come la pubblica amministrazione dello Stato italiano se, grazie al buon Dio e facendoli tutti gli auguri possibili, partorisce? Beh, uno può stare a riposo una settimana, può stare a riposo una settimana. Fretta è una settimana, Nembo Kid. Perché? Mi sa tanto di spot di una donna che ha amicizie importanti, ha avuto relazioni importanti, quindi fa il ministro perché è raccomandata di ferro. Qualcuno... Beh, non so, io non conosco le sue vicende, sui giornali leggo che ha avuto una storia con col figlio di Napolitano, sia vero, non mi interessa. Ma anche secondo me è abbastanza raccomandata, però il punto è un altro, perché una donna incinta non può fare il ministro? No, ma figura, la donna incinta... Ma tu l'hai detto, questo hai detto. La donna vale... No, se io mi devo fidare di Renzi, e io non mi fido, perché è un chiacchierone che a Firenze ha lasciato solo debiti e più tasse. Allora? Detto questo, se io mi fido di questo che mi dice che io in 4 mesi cambio tutto... Scelgo una donna che fra 2 mesi è in ospedale a partorire? Ma noi in ospedale, ma uno ci va una settimana. Scusami, Matteo, uno va una settimana. Sì, vado al dentista, adesso va bene tutto. Io ho avuto una bimba un anno fa, ovviamente è bello. E tua moglie che ha fatto un anno fa? L'attesa, l'operazione. E mia moglie non è che una settimana dopo è tornata a lavorare, altrimenti mi sarei preoccupato per lei, per me, per mia figlia. Vabbè, una settimana dopo si può tranquillamente tornare a lavorare, basta che uno abbia i soldi per avere una bambinaia, per avere qualcuno che ti tiene la bambina, eccetera, eccetera. Al Parlamento europeo avete l'esempio di una persona che si è portata la figlia per 2-3 anni al Parlamento europeo. Sì, una ministra ha qualche problema in meno rispetto alla donna normale, all'imprenditrice, all'artigiano o all'operaia che partorisce. Detto questo, mi sembra, non vorrei che fosse uno spot. Come fu, cioè, lo spot la donna incinta, dici? La donna incinta come è uno spot? Come fu uno spot la Chiang. Sì, e ci hanno dato ragione dopo un anno, visto che se fosse stata fondamentale, sembrava un ministro fondamentale per il futuro del mondo, è sparita. L'hanno segata loro da sinistra. Adesso, se in 3 mesi mi devi cambiare il mondo, e non penso che ce la farei... Come lo puoi fare con una donna incinta? Come lo puoi fare con una donna? Con una donna che fra 2 mesi fa la cosa più bella del mondo, ovvero sia mettere a luce un figlio. Vabbè, ma scusa, ma uno può... ci sono persone che se fanno una maternità, come dire, tranquilla, possono stare fino al giorno prima, al 2 giorni prima a lavorare, anzi, fino all'ultimo secondo a lavorare. Vabbè, posso dire che questo è un dubbio che mi hanno trasferito tantissime donne quando hanno sentito la notizia. Io non partorirò mai nella vita, forse. Beh, no, questo non credo. Tante donne, non si sa mai, perché l'Europa, oltre a cancellare mamma e papà, magari vuole fare in modo che... E che ne so, magari fai un'operazione, e te lo tagli, che ne sai? Per carità di Dio. Detto questo, sarebbe stato più funzionale mettere un ministro A che sapesse qualcosa di pubblica amministrazione. Vabbè, quello? Non B? Conosco le competenze dell'onorevole Madia non incinta. B che avesse davanti almeno un anno di lavoro 24 ore su 24. Se uno deve partorire, giustamente pensa a suo figlio, non pensa al ministero. Ma non lo so, c'è una donna pienamente abile, vuoi dire tu? Beh, ma detto questo... C'è una donna, vorresti una donna pienamente abile? La gravidanza non è una malattia, e che ne so, ma pensi bella del mondo. Però fortunatamente penserà al bimbo, spero, e non a Renzi. Ma non è vero, uno può pensare al bimbo quando c'è il bimbo. Questo, i problemi governativi. Parenzo, che c'è? Che vuoi dire? Che vuoi dire? La signora Madia. No, voglio dire, per usare l'immagine che usa, cioè, diciamo, la Madia tra 2 mesi, se vuole, non sarà più incinta. Lui invece, leghista, purtroppo ci rimane. Che vuol dire? Che lui, la malattia della Lega, l'incinta non è, essere incinta non è una malattia. La sciocchezza madornale che lui ha detto, per cui secondo me, e io lo dico con affetto e con amore, perché io adoro Salvini da 20 anni. Vabbè, tu adori tutti, poi allora? No, ma lo conosco da 20 anni, siamo cresciuti insieme. Ma io dell'affetto di Parenzo ne faccio volentierissimo a me. Mentre io ho iniziato a fare la televisione, vabbè, dai, pare, e forza. Lui andava a raccogliere l'acqua del Po. Vabbè, allora... Ma sostanzialmente dice che i leghisti sono dei malati, mi sembra aver capito questa profonda analisi giornalistica. No, malati. Beh, questo hai detto. Malati proprio. Sì, no. Hai detto, però che... Con qualche tara mentale. Cioè, i leghisti hanno delle tare mentali. Tarati mentali, questa è la cosa di stasera. Parenzo, 2 punti, i leghisti sono tarati mentali. No, tare mentali, perché se uno pensa... Radical chic... Danaroso di sinistra che non deve far fatica nella vita, che può se uno pensa che esista davvero il Dio Po, se uno pensa che esista davvero il Dio Po, beh, io ho una visitina. Ma Gianni Brera parlava del Dio Po, che dal mio punto di vista conta un pochino più di David Parenzo, quindi io sto con Gianni Brera, se proprio va bene. Parlava del Dio Po. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, buona serata, bestie. La Zanzara. Zanzare, fanno male. Negro da Cruciani, la devono cacciare via dall'ordine del giornalista, perché lei la offende. Siamo qui pronti a prendere le pietre, ma a difenderci. Non abbiamo paura di nulla. Ma scusami. Burocrati, dimmi. Burocrati, scusa, spiega però una cosa al pubblico. Dimmi. C'è l'ordine dei giornalisti. No, non me ne frega niente, voglio farti sentire la taverna. Non me ne frega niente, ma che gliene frega le persone che stanno in macchina, sui camion, sui taxi, quando non vengono picchiati vergognosamente almeno, a Milano? Almeno diciamo. Non me ne importa niente, non stare a spiegare cose che non interessano al pubblico, le cose che ci riguardano. Ho fatto un piccolo accenno, punto e basta. Stanno aprendo una procedura contro di noi e chi se ne frega? Basta. Contro di te. Va bene, non ti preoccupare, non hai problemi tu, non ti preoccupare, sei diventato un cagasotto, lo sappiamo. Certo, sei un cagasotto e lo sappiamo, dai. Ma ci sono anch'io, ma scherzo. La taverna 5 stelle, senti qua, è diventata la number one dei 5 stelle, La Madia raccomandata di ferro. Le zanzare fanno. Arriva, Arriva. Se ci aggiungiamo una raccomandata di ferro come la Madia, nota tra l'altro per essere una degli ignavi che nel 2009 permisero la vergogna dello scudo fiscale, beh, possiamo proprio dormire sonni tranquilli. Sono piccole, insidiose, fastidiose, le zanzare, fanno male. Nessuno si beve la storiella del mercato rionale. La sua campagna delle primarie, presidente Renzi, pensa davvero che il popolo italiano sia così ingenuo da bersi la storiella del mercato rionale, che non sappia delle sue cene a porte chiuse con gli squali dei veri mercati che le interessano, cioè quelli finanziari, della sua benevola investitura da parte della troica e delle banche speculatrici che ci hanno condotto sull'orlo della catastrofe? Senti ancora su De Benedetti, la taverna, un mito, una leggenda ormai, un personaggio mitologico quasi, quasi da fumetto. Perché non ci dice chi sono i burattini che la manovrano? Solo pochi giorni fa, parlando del governo, aveva liquidato la questione con un "ma chi ce lo fa fare?". Beh, oggi conosciamo la risposta, almeno... Lasciate finire l'intervento, poi sarà... De Benedetti, quando tu stai per dormire. Oh, a proposito di cose che ci siamo lasciati indietro, c'è anche la Comi che dice pure lei che la Madia non era il caso di farla ministra perché è incinta. Io dico, ma veramente c'è un impazzimento generale. E sì, io non ho simpatie particolari, penso anzi che sia stata molto fortunata nella sua vita perché senza grandi meriti, solo per le amicizie giuste, cosa che può accadere in questo mondo, non meravigliamoci più di tanto per quello che riguarda. Credo che sia solo questo. Sì, secondo me è quasi solo questo. Secondo me non è solo. Sì, ma dai, su ragazzi, di persone che hanno curriculum. Mi meraviglio che lo dica tu, che voglio dire, sei una persona anche molto libera, che sta scelta in genere. Ma in genere. Ho capito, ma io ho detto che non è un dramma avere le amicizie giuste, mica sto dicendo che è un dramma, sto dicendo è una persona che ha le amicizie giuste. Punto. Però il fatto che una donna, cioè la Comi, perché un conto è Salvini. Ma sì, ma sentiamola prima, la Comi un dice. Conto è Salvini. Sì, certo, ma infatti questo qua lo condanno, questo qua ma lo condanno. Che raccoglie l'acqua del Po, va bene. Ma lo condanno questa roba qui la condanno io. Dire che non può fare il ministro perché è incinto, uno dovrebbe dire non può fare il ministro perché è una raccomandata di ferro. E questo è un discorso che ci può stare, su cui in parte concordo anche. Ma non mi puoi dire che non può fare il ministro la signora Madia perché è incinta, perché lì mi incazzo. Bravo. Perché lì mi incazzo. Bravo. Ad aprile la riorganizzazione della pubblica amministrazione, stringerò doppiamente la mano e auguro anche al ministro Madia di partorire giusto in tempo, perché anche su questo io rispetto assolutamente la maternità, ma secondo me non era il caso in un momento così poi avere il periodo di maternità e ancora vacanze. Ma dico, questi qua sono veramente impazziti, cioè hanno perso veramente la testa. Come si fa a pensare che uno, siccome bisogna fare la riforma della pubblica amministrazione, è incinta e allora non era il caso di farla ministro? Ma dico, sono impazziti. Mi segnalano che l'amministratore delegato, non so di che, di Yahoo o non so di quale grande compagnia, è stata nominata al quinto mese. Ma nei paesi civili è così. Dai, su, ma ragazzi, ma queste sono veramente delle cose barbariche. Come si fa per fare polemica? E lo dico io, per fare polemica non si può arrivare fino a questo punto. Bravo. Cioè uno incinta è pienamente in grado di fare il ministro. Bravo. Che poi sia preparato per farlo, preparata per farlo, no! Anche perché la stessa Madia, se non mi sbaglio, dice capirò giorno per giorno come fare. No, amica mia, non abbiamo bisogno di gente che deve capire giorno per giorno, abbiamo bisogno di gente che c'ha i controcoglioni e che sa già tutto della pubblica amministrazione, dove andare a colpire, dove andare a riformare, dove andare a stringere, dove andare ad asciugare la pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Per diventare mamma, come riuscirà a conciliare? Lo spero, ho già un bambino e certo è complicato e sarà, insomma, si capirà giorno per giorno come fare. Va bene, Carlo da Milano, dai, 800 24 00 24. No, sono da Perugia. Da Perugia, Carlo da Perugia, vabbè, ci siamo sbagliati. Allora, occhio, adesso c'è Matteo. Sì. Che non faccia il fariseo, ci sono già parecchi scribi pronti a tagliare cibi di operai e di pensionati che oramai sono stremati. Fai pagare le tasse ai ricchi, a Berlusconi, ai Vazzanicchi, anche a Grillo e a Casaleggio. Qui si va di male in peggio, anche se si dà un po' d'aria. Io l'ho votato alle primarie, ma se non apre il portafoglio, i 2 euro io li rivoglio. Carlo Chionne, da Perugia. Grazie. Grazie, Carlo. Adriano da Siena. Sì, mi sentite? Buonasera. Vada. Buonasera, sì, io ho dato Toscano. Beh, la poesia in rima per Renzi non era male, di Carlo da Perugia, eh. Adriano. Volevo porre una domanda e ho tutte le carte in regola per porle come toscano puro sangue e come cittadino accento di una dura persecuzione in questa regione, cioè siamo nella regione più massonica d'Italia. La massoneria è per me il fiorfiore della mafia, la quintessenza della mafiosità, specialmente qui a Siena, no? Dove pare sta per essere eletto il nuovo gran maestro del Grande Oriente d'Italia. No, non ho capito qual è il ragionamento, Adriano. Secondo lei... Arrivo subito. Quando un toscano va al potere c'è da preoccuparsi. Matteo Renzi... Dico questo, in Toscana non si diventa neanche capo ufficio se non hai una loggia che ti appoggia. Cioè lei sta dicendo che senza le logge massoniche Renzi non sarebbe mai diventato primo ministro? Assolutamente, cioè, ci dica quali sono. Parenzo, chiami tu o chiamo io? No, io vorrei ricordarmi. Aspetta, fermo un attimo. Questo ascoltatore, do questa informazione, chiama già da un reparto dove è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. I medici hanno deciso, sentendo la trasmissione, di provarle tutte. Ci dicono, vabbè, i farmaci non... Mandiamola alla zanzara. No, dice, appunto, i farmaci non bastano. Proviamo con l'ultimo tentativo. La Lorenzin, che è stata riconfermato ministro... Per fortuna, questo, perché ha riconfermato la convenzione con noi. Ha riconfermato la convenzione e questo, infatti, è il primo risultato. Cioè, l'ospite, la persona... Allora, quale loggia massonica apparterrebbe, Renzi, caro Adriano? Sì, allora ascolti, io volevo porti questa domanda, sì, perché sono sì. Una mano. Quando un toscano va al potere c'è da preoccuparsi, te lo dice un toscano. Ma che vuol dire? Che vuol dire? È Lucio Gelli e sappiamo chi è stato. Toscanissimo Senesi e Luciano Moggi e sappiamo cosa ha fatto per il calcio italiano. Ma che c'entra con la loggia massonica Moggi? No, per dire che guarda, Toscani, due toscani hanno portato negli scandali Finmeccanica. Ma ho capito, ma è pieno di toscani che non è pieno di toscani che non portano nessuno nello scandalo, ci sono esempi contrari anche, che vuol dire? Sì, però ascolta, che la Toscana sia la regione più massonica d'Italia è un dato di fatto, Siena in particolare. Vabbè, grazie. Matteo Renzi non poteva arrivare in poco tempo senza la massoneria, senza avesse avuto l'appoggio di logge massoniche. Questa potenti. È come la critica che viene fatta alla Guidi perché appartiene alla Trilateral, la stessa identica cosa. Magari ci sono altre critiche da fare, no? Susanna, provincia di Firenze. Sì, buonasera dottor Buonasera, dica. Buonasera Parenzo. Io volevo intervenire in merito alla Madia, perché appunto diceva Madia, mi scusi, non può fare il ministro essendo incinta. E voglio dire questo, ci sono un sacco di donne che non sono dipendenti ma sono piccole commercianti, hanno piccole attività, sì. E quindi che dopo 10 giorni ritornano nei loro laboratori, nei loro negozi, ritornano a fare le loro attività perché non hanno diritto a una maternità. Certo. Quindi non mi sembra nulla di strano, ecco, cioè lei lo potrà fare come centinaia di migliaia, milioni di donne fanno da tanto tempo, quindi ma sì, non mi sembra ragazzi, niente ma, di particolare. Ma sono discorsi inutili, mi sorprende. Anzi, potrà, lei, voglio dire, non gli mancano le possibilità, potrà per un periodo magari stare anche a casa, ma breve, però tante donne lo stanno facendo, quindi non mi sembra niente di particolare, quindi credo che lei potrà portare avanti il suo lavoro come tante piccole imprese. Allora, se uno si vuole impegnare anche con un figlio, si impegna lo stesso, soprattutto se ha le possibilità economiche per farlo. Se ha le possibilità economiche. Anche il primo figlio, quindi è il secondo, lei sa già a cosa va incontro. Ma mi pare una critica veramente assurda, veramente, veramente ridicola. Uno può criticare la Madia perché magari non ha grandi competenze nella pubblica amministrazione. Ma non certo perché è incinta. Insomma, ma non perché è incinta, dai, non arriviamo a questo livello di barbarie. Mi sembra, volevo dire questo. Un attimo, grazie, un attimo. Vabbè. Forza, dai. Andrea da Roma. Por Cruciani. Dica. Guardi, io una cosa che non sopporto da gente come Parenzo, oppure come anche Mughini, gente di sinistra, che loro si sentono culturalmente superiori, cioè chi non la pensa come loro sono culturalmente inferiori. Ti preannuncio, Parenzo, che i leghisti, molti leghisti mi stanno scrivendo perché tu gli hai dato dei tarati mentali. Io ho detto che hanno delle tare mentali e preannunciano fuoco e fiamme, fuoco e fiamme. Io ho detto che chi crede che esista il Dio Po e passa la domenica con l'acqua del Po, passa la domenica, prima va alle foci. È un tarato mentale. Ma come? Ma molto di più. Ma scusami. No, tu hai parlato dei leghisti che hanno delle tare mentali. Ma chi è leghista ha una tara mentale? Scusami, ma se tu vai sul Monviso, vabbè, ma... e fai la cerimonia dell'ampolla sul Monviso, là dove sorge il Dio Po, raccogli con l'ampolla l'acqua e poi con questa maledetta ampolla percorri dal Piemonte fino al Veneto e arrivi a Venezia e versi l'acqua nella laguna. Ma sono rituali, dai, su, sono rituali, sono simboli, dai, sono simboli. Se lo fai, sei un malato mentale. Vabbè, chi c'era, Andrea? Io infatti non faccio parte di quelli che sono lì sul Monviso perché essendo romano, però ho votato il Movimento 5 Stelle e lo rivoterò. E vabbè, ma questo va bene. No, perché voi le sentite, voi il vostro... Ma io non sono del PD. Il PD, tutti questi qua... Ma io non sono del PD. Fermati, fai parlare. Allora? Ma io stavo dicendo, siccome loro si sentono, loro pensano che il loro voto è culturalmente superiore, invece non è così. Perché poi dopo questa sinistra, stranamente, in Italia perde sempre, proprio perché loro si sentono molto più superiori, invece non è così, perché non riescono a parlare con la gente, perché se non la pensano come loro, li disprezzano culturalmente, li disprezzano, come fa anche Mughini. Però io da Mughini non accetto nessuna lezione, perché Mughini fa parte... Ma che c'entra Mughini prima... adesso? Che c'entra Mughini? Ma Mughini telefona e rompe sempre il cazzo al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha preso i voti, come tutti i diventi... Ma uno non può avere un parere negativo sui 5 Stelle, perché... No, lui non li disprezza, è diverso. Lui non è che lui ha un parere negativo, lui li disprezza. Un attimo, professore? Eccomi. Come andiamo? Benissimo. Benissimo. Pieni di insulti. Beh, timidi insulti, come timidi insulti? Te stanno a massacrare, professor. Appunto, mi stanno a massacrare. Hai detto che la Juventus sono dei ladri. Ho detto, la parola può essere certamente sconveniente. No, ma non avere paura, non ritirarla indietro. Non tirarla indietro. Però hai detto, la Juventus sono dei ladri. Le circostanze di fatto sono quelli, no? Sono quelle. Non cioè quali? Dubbio. Cioè c'è quali? Stato un rigore che doveva essere dato al Torino, non l'hanno dato... al Torino se lo sono tenuto, mi pare che sia l'arbitro stava lì davanti, anzi ero in tre che stavano guardando come si faceva il rigore, e quindi come al solito la storia si ripete. La storia si ripete in che senso? Si ripete la storia perché mi pare pacifico che solo in quest'anno, per parlare di cose recenti, cioè da Moggia ad Andrea Agnelli non è cambiato niente. A noi mancano 4 punti non dati, alla Juventus 8 punti in più dati. Credo, fatti i conti dall'inizio del campionato, credo che sia la riprova che cosa? Il vecchio sistema non è cambiato. Cioè da Moggi ad Agnelli non è cambiato niente. Ma non è cambiato niente, ma anche allora. Ma professor Tamino, ma lei vuole fare una denuncia contro gli arbitri? No, io voglio io ritengo che gli arbitri possono essere, secondo me, passibili di frode sportiva come tutti quanti gli altri protagonisti del calcio. C'è una norma del penale, la quale prevede che in caso di frode, quindi si tratta ovviamente di situazioni di intenzionalità, e quindi ovviamente serve la galera, hai scritto che serve la galera per gli arbitri. Le norme penali portano sempre in galera normalmente, almeno salvo le sanzioni pecuniarie. Comunque gli juventini, gli juventini, per la frode sportiva c'è la galera, ecco. Comunque professore, i juventini sono scatenati contro di lei, scatenati. Io ho visto che sono scatenati e mi dispiace, perché io ripeto, è meglio che si procura una scorta. Sì, no, me ne frega niente. Io, come fa, Renzi ha per scorta i cittadini, io ho per scorta i tifosi, quindi non c'ho. E quali tifosi, scusa? I tifosi della Roma, quali? Ma che scopo, ma che i tifosi della Roma se ne fottono? No, non è vero, non è vero. Se ne fotte la Roma, non i tifosi della Roma, perché non c'è stata una parola che la società di calcio Roma abbia speso a beneficio di chi fa queste battaglie, che non soltanto sono a vantaggio della società, ma sono a vantaggio della correttezza, cioè, che doveva fare, e della veridicità dei campionati. Come che doveva fare? Dire che in effetti, voglio dire, se continuiamo ancora, che nonostante tutto questo si sta in silenzio perché si ha preoccupazione della partita della settimana successiva, non andremo mai da nessuna parte, fino a quando poi non la prenderemo a quel posto senza nemmeno accorgercene. Addirittura. Questa è la mia. Beh, guardi, insomma, io credo che. Ma in quel posto, innanzitutto lei non lo prende mai. In quel mai posto. Ci sono gli altri che lo prendono al posto mio. Su questo non c'è dubbio. E chi lo prende al posto suo? Non lo so. Beh, sono tanti quelli, lei sa. Che io ho delle predilezioni particolari sotto questo. Ma Luxuria, sotto questo, ma Luxuria dice che la vuole incontrare. Luxuria? Me l'ha detto a me. Vabbè, che dica che la posso incontrare, ma se no, lì poi non sappiamo, uomo, donna, non capiamo, per cui insomma siamo. Siamo nell'incertezza. Come la definisce la Luxuria? Il punto di partenza? Ma guardi, le dico la verità, io ho avuto alcune occasioni, non molte, sì, di parlarci, sia quando era deputato insieme a me, eccetera. Devo dire, è una persona tutto sommato gradevole. Tutto sommato? Tutto sommato. Tutto insomma, la situazione mica è colpa sua, è una ecco, che è una persona che certi atteggiamenti, diciamo, che in qualche modo fanno schifo, fanno non schifo, li prende, certo, perché ha sempre una sua signorità. Ma come fanno, non li prende? Ha fatto di tutto, ha fatto. Ma sì, ma c'è stato un periodo in cui l'ha fatto, ma è molto tempo che non lo fa, per cui. Ma che cos'è secondo lei, maschio, uomo, che cos'è secondo lei? Ah, quelli sono cavoli suoi, guardi, io non ho nessuna curiosità. Lei si manifesta come donna. Comunque ci sono un sacco di uomini che vanno a trans oggi, lei lo sa benissimo, professor. No, io non lo so per niente, guardi, so degli altri, perché per quanto mi riguarda. No, lei. No. Vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. nessuno può, diciamo così, criticare i gusti. Perché? Però voglio dire, io prendo l'occasione da questa sua interpello, di cui la ringrazio, perché guardi, veramente mi sono trovato ieri a oggi in una tempesta di quelle fatte di violenza, lasciamo stare le ingiurie, siamo abituati a tutto. Ah, sulla Roma, dice lei. Sì, un attimo solo, professore, torno subito. Ma fanno schifo. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Gira sempre intorno a me. Oh, con noi il professore avvocato Carlo Tormina. Tra l'altro, Parenzo, bisogna dire una cosa. Tormina, sai che difende tutti i criminali, che ovviamente è normale, pazzesca, a Bustarzizio qualche giorno fa con morti, anzi con un morto, eccetera. Com'è quella famiglia, Taormina? Brava gente? Ma è una famiglia, innanzitutto non è famiglia di 'ndrangheta, ma è una assolutamente. No, per carità. Di morti ce n'è stato uno solo, ed è stato quello uno di coloro che hanno partecipato all'evasione. Quindi non è morto nessuno, grazie a Dio. La Cutrò, la famiglia Cutrò, come si chiamava quella? Sì, sono i Cutrì. Vabbè, saranno 'ndranghetisti, saranno. Nel modo più assoluto, non lo sono. Non lo so. Che abbiano certamente a che fare con la giustizia. Tra l'altro, ho difeso proprio quello che è morto 2-3 anni fa circa, e fu assolto poi dall'imputazione che gli era stata contestata. È una famiglia di gente, di brava gente. È una famiglia di gente specchiata, che ha certamente dei problemi, ma che indubbiamente viene descritta in maniera diversa da quella che... è gente legata all'Andrangheta, professore. Ma guardi, io le posso assicurare che non è così. Non è così, va bene. Che poi abbiano dei problemi con la giustizia, è evidente. Vai, Farenzo, che c'è? Che vuoi dire? Voglio dire a Taormina, stai a vedere adesso che il criminale è il pubblico ministero, perché è qui adesso, voglio dire. No, ti devo dire, Farenzo, che hanno fatto delle ottime indagini. Ottime. Sì, hanno fatto delle ottime indagini, in poco tempo hanno risolto il problema e soprattutto hanno determinato la collaborazione che attualmente è in atto di tutti coloro che hanno partecipato a questa operazione, che io credo sia stata più dimostrativa piuttosto che criminale. Comunque la famiglia ritiene che Domenico Cutrì sia stato ingiustamente condannato e l'ha sempre ritenuto. Che sia vero o non sia vero non è affare mio dirlo, perché non conosco gli atti, però la ragione di questa comunque la famiglia Cutrì non sono endranghetisti, dici tu? Sicuramente no. Assolutamente. Su questo non c'è dubbio. Però scusami, volete dire il contrario, dite il contrario, perché siete sempre pronti a enfatizzare o quant'altro. Quando se mi dite di altri e mi fate domande su altre persone, vi dico sempre la verità come la sto dicendo in questo momento. Queste sono persone che hanno avuto problemi e hanno problemi con la giustizia, però non sono ndranghetisti, perché scusami, è una cosa completamente diversa. Professore, ma hai visto in Uganda che sta succedendo? Che sta succedendo? Beh, promulgano delle leggi in cui ci sono delle condanne. Ho visto, ho appreso con piacere. Ho appreso con piacere, perché erano situazioni? Di esibizionismo le quali sono state giustamente condannate. Ma un liberale come te, scusa. No, ma io sono liberalissimo. Però l'importante è che ognuno sia liberale a casa sua. Cioè, questa gente non era soltanto omosessuale o quant'altro, ma era gente che determinava un certo tipo di esemplarietà, un certo tipo di prototipo mostrato alla società, che non va bene. Quando tu leggi sui giornali che a Venezia, nelle scuole di Venezia si danno i libri ai bambini nei quali si dice qual è la famiglia, che la famiglia può essere fatta anche da figli di omosessuali, io credo che siamo veramente alla fine del mondo, insomma. Voglio dire, tutto è possibile. Ma tu che faresti? Certamente che dire ai nostri figli che la famiglia è fatta di due uomini o di due donne, secondo me è veramente una grande porcata. Ma scusa, ma che faresti a quegli insegnanti che distribuiscono quei cosi, tu? Beh, li caccerei dalla scuola come minimo. Ma certo, questa è corruzione dei minorenni, non è né più né meno. Dal punto di vista culturale questo è semplicemente vergognoso. Io, mio figlio e mia figlia, non so se i vostri figli ci rimandate volentieri, ma a una scuola dove io ci rimando, dicono, che me frega. Gli dicono come si sta bene in famiglia facendo essendo due omosessuali, francamente a me sembra una cosa veramente che ha dell'incredibile. Guardate che questi sono elementi semi nella società, più che semi, ormai sono macigni. Nella società che o prima o poi pagheremo. Dunque il presidente Museveni in Uganda fa bene a fare quelle leggi là. Guardi, io dico questo. Fa benissimo. Certamente poi ogni legge vive nel contesto. Non c'è dubbio. Nel contesto, però in proprio Uganda c'è un pericolo. Per cui voglio dire, ci possono essere delle esagerazioni dovute certamente a gente che non ha civiltà, però, e quindi ovviamente reagisce in un certo modo. Noi probabilmente reagiremo, in effetti reagiamo in modo diverso, però non si può negare che non c'è ombra di dubbio che instillare questo tipo di logiche nella società per far diventare normale o imitabile quello che invece si rappresenta come una disgrazia che può capitare, una disgrazia che sia elementare. Cioè l'omosessualità è una disgrazia, professore. Beh, una disgrazia, certo, una disgrazia. Scusami, una disgrazia che ognuno si vive per conto suo, senza nessuna possibilità di essere sotto alcun profilo criticato, purché sta a casa sua come sto a casa mia io, che sono le tre. Scusi, professore, ma se uno allora fa la propaganda gay è giusto che venga punito, come succede in Uganda? La propaganda gay non si deve fare. Lei la fa la propaganda eterosessuale degli eterosessuali. Ma che c'entra? No, non ho capito perché deve fare degli omosessuali. Non ho capito la ragione. Perché deve fare la propaganda degli omosessuali? L'omosessuale è una condizione che se la vive per conto suo, tutti gliela rispettiamo, purché non rompe i coglioni. Credo che sia la cosa più elementare che si possa fare in una società civile. Ma scusi, allora viva Museveni da questo punto di vista. Viva Museveni. Io non dico questo. Ma hai detto prima con piacere, ho preso con piacere, hai detto, come so. Certo, rispetto a quello che facciamo noi, è meglio. Mandiamo nelle scuole dei bambini i prototipi della famiglia omosessuale, certo, ha fatto bene quel signore lì. Ma quel signore lì è il presidente dell'Uganda che vuole condannare da 14 anni all'ergastolo gli omosessuali, professore! Qual è il problema? Ma come qual è il problema? Da 14 anni all'ergastolo! Ma se sono incorreggibili, che dobbiamo fare? Se la incorreggibilità ma come nel senso del viversi per conto loro, la condizione che il Padre Eterno gli ha dato e che tutti i cittadini e tutte le persone sono disposte a rispettare, perché questo è il punto fondamentale, disposte a rispettare, io sono disposto a rispettare, purché, ripeto, non rompano i coglioni con le manifestazioni estrinseche che vorrebbero essere un prototipo per la società. Professore, professore, c'è una frase di Museveni, presidente dell'Uganda, che dice sono disgustosi, gliela faccio sentire, i gay sono disgustosi, aspetti un attimo. Do you personally dislike homosexuals? Dislike. Of course, they are disgusting. They are disgusting. What sort of people are they? How can you go? I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that. Hai capito? Disgusting, professore. Sì, sì, a me sta bene. Io sono assolutamente sulla stessa linea. Sarò ugandese pure io, però così questa è la situazione. Non vedo ragione per la quale dare una valutazione diversa. E lo dico con molta sincerità. Sì, però, certo, ma lei la sua sincerità è ottima. Infatti vede Tormina, che pago le conseguenze, perché no, Parenzo, dimmi Parenzo, che c'è? Tormina, però meglio essere adottati da una famiglia di omosessuali piuttosto che da una famiglia di andranghetisti, almeno su quello almeno sì. Guardi, sa, le famiglie, queste famiglie, per quelle che sono le mie esperienze, sono esecrabili sotto certamente il profilo della criminalità. Però, a parte il fatto che poi se educano alla criminalità anche i figli, questo è un altro problema. Però dal punto di vista di certi principi, soprattutto di certe chiarezze, sono un po' diversi dagli omosessuali. Cioè lei dice che la famiglia dei ndranghetisti spesso... Voglio sapere una cosa. Ma lei... se avesse un figlio che una coppia di omosessuali volesse adottare, una coppia molto ricca, molto ben collocata in società, eccetera, lei sarebbe d'accordo? Sì, assolutamente. Ah beh, allora pure lei è arrivata a dei livelli di depravazione che non immaginavo. Ma che depravazione? Ma scusa, lei sta dicendo una cosa gravissima, però, che una famiglia di ndranghetisti spesso ha dei principi morali molto più saldi rispetto agli omosessuali. Guardi, le sembra un'affermazione, le ho già fatto la premessa, sennò poi mi fate dire cose che non voglio dire. Io posso dire questo, che certamente io riprovo quelle che sono le operazioni e le iniziative criminali, dranghe, vabbè, quello è chiaro, quello è chiaro. Ma per il resto, laddove ai figli non inculchino l'idea di fare i criminali, si tratta di persone che hanno spesso purtroppo il senso della famiglia, perché addirittura la famiglia diventa purtroppo il clan, per cui voglio dire, però su questo, cioè, almeno su uomo e donna, di non creare confusioni tra i sessi e tra i rapporti tra i due sessi, credo che sia almeno quello ce l'hanno, una cosa che hanno. Poi se ci sta, però, scusi, un ndranghetista procio, me la prendo pure con lui. Ma come? No, secondo me esisteranno pure, lei non ha mai conosciuti. Ma certo che ci sono, come no? Meno male. Allora, io voglio dire una cosa, un attimo, che abbiamo una telefonata fondamentale. Una persona ci stava sentendo prima sulla questione Roma-Juventus. Sì. Una persona molto importante, professore. Si aspetti una critica, Si aspetti una persona molto importante. Che vuole che mi faccia? No, però la critica le verrà da una persona, come dire, che ha avuto un ruolo importante. Un attimo. Che lei sta imitando, sicuramente. No, ma che sto imitando? No. mica sono Barca io, No. Aspetti, che non prendiamo la linea. Aspetti, meno aspetti. Male, aspetti. La finta è ancora superiore. Chi è? Luciano? Chi parla? Sono Cruciani dalla Zanzara, ciao. Prima hai chiamato tu al centralino, adesso poi hai lasciato il numero per richiamare. Sì, perché vi stavo ascoltando per caso. Sì. Ho sentito il solito turpiloquio, che non vi piace. No, vabbè, turpiloquio solito, in che senso? Scusa. Il solito giornalismo spazzatura. Ma in che senso? Scusa. Io ho la sensazione che Taormina, l'avvocato Taormina, sia piuttosto confuso. Ma su che cosa in particolare? Ho letto le fesserie che sono state scritte in internet. Sarebbe ora di finirla, perché bisogna finirla. Ma con che cosa bisogna finirla, scusi, Moggi? Ma visto, sì, poi noi ci diamo del tu, ci diamo del tu, no? Mi sembra, Luciano, scusami. Vabbè, senti, non ha importanza. Sì. I rigori dati di rigori non dati, latrocinio Juventus, sono termini pesanti che un avvocato non dovrebbe assolutamente usare. Taormina? Prego? Sì, ha sentito Moggi? Ma innanzitutto io lo saluto Moggi perché ci conosciamo e quindi per carità nessuna... Moggi, saluto Moggi, però poi alla fine vediamo scritte che ognuno pensa quello che dice e pensa quello che ritiene e se ne assume la responsabilità. Lei ha avuto dei processi, li ha superati, li ha affrontati, parzialmente ha avuto anche persino ragione, io ragiono da sportivo e le dico che comunque la Juventus è stata nella storia del calcio certamente un esempio assolutamente in un certo periodo negativo. Non casualmente è andata a finire in Serie B con l'avvocato che chiedeva privatamente ai giudici di mandare un attimo, situazione non è che possiamo distruggere la realtà, che poi lei c'entri, non c'entri, faccia, non faccia, a me questo non interessa. Io la considero una persona seria e la considero una persona garbata con la quale ho avuto qualche occasione di incontro. Detto questo, però, che la storia possa essere negata, questo non può essere. Ma lei ha detto che la Juventus ruba. Possa aver usato un linguaggio forte, lo riconosco e ho già chiesto scusa sia alla Juventus che lasci parlare un attimo Moggi, professore. No, voglio finire. Quello che mi meraviglia è la violenza dei tifosi juventini, una violenza veramente inammissibile in nessuna parte del nostro paese l'ho mai riscontrata. No, è così. Io ho ricevuto delle minacce in queste ore che nessuno immagina la gravità di queste minacce. Moggi. Perché mi chiamo Carlo Taormina. Mi scusi tanto, però nel momento in cui si usano termini pesanti, cosa vuol dire l'atrocinio? Ha usato, mi lasci parlare, ho lasciato parlare lei, adesso lei lascia parlare me. Lasci parlare Moggi, Taormina. Se no va bene. Innanzitutto ho sentito dire prima che non è cambiato niente da Moggi Agnelli, avete detto questo, e poi si parla di latrocinio. Io sono stufo di sentire queste cose. Io ho portato i miei progetti, no. Mi dispiace. Ecco. È la verità e non finirò mai di dirlo. Lei pensi piuttosto a difendere i suoi clienti, Taormina? Ma io lo faccio, la Roma è indifendibile, lasci perdere Moggi, lasci perdere Calciopoli e lasci perdere la Juventus. Io faccio quello che cazzo mi pare, scusi. Ecco, Moggi. Allora se cosa facciamo? Non li avvocato, per cortesia, ci vediamo in tribunale. Una persona che è stata adesso gliela dico in faccia. Perché è una cosa intollerabile che lei possa venire a fare il moralista con me, quindi non mi rompa i coglioni. Bene. Allora sai che facciamo? Visto che è avvocato, ci vediamo in tribunale, Ci vediamo dove cazzo vuole. Ecco, va bene, faccia avanti gli affari suoi, è una cosa insostenibile. Sempre a Juventus, sempre Moggi, basta, ci vediamo in tribunale. Buonasera. Io non ho detto assolutamente niente di lei, è lei che sta parlando di se stesso. Vabbè. Ma parlate di se stesso, è lei che mi ha tirato. Io non l'ho tirata fuori mai, non ho detto una parola su di lei e ogni volta che c'è stato da difenderla l'ho difesa. Non è vero, perché ho sentito dire adesso in trasmissione. Io ascoltavo in trasmissione, ho ascoltato, lei ha detto che non hai cambiato niente da Moggi e da Agnelli. Questa è la verità, l'ho sentito io, non me lo sto inventando, capito? Non mi ha detto che è stato lei, il protagonista, non ho detto questo. Penso che si sia ben sopra la sua testa per le cose che succedevano allora e che casualmente adesso che lei non c'è succedono ugualmente, quindi questa è la mia posizione. Ecco, lo vede, allora non c'è congiura, non ci sono cupole, non c'è Calciopoli che è una barzelletta, non ci sono arbitri corrotti, Taormina, però la smetta. Gli arbitri corrotti non ci stanno, gli arbitri che sbagliano non ci stanno. Io non ho mai rubato partite. Le inchieste che hanno fatto i magistrati e che hanno portato anche lei sul banco degli imputati senza esiti favorevoli dal punto di vista accusatorio perché è andato avanti con prescrizioni e quant'altro, voglio dire, non conta più niente, dobbiamo far finta che non esista niente. No, mi dispiace. Allora, adesso la smettiamo. Comunque lei Taormina la smetta di scrivere quelle cose. In io internet. Faccio quello che mi faccio pare. Oggi io faccio quello che mi pare. Non prendo consigli da lei. Sa qual è la differenza? Le conseguenze di quello che faccio, ma faccio come voglio. Lei non si può permettere. Lei non si può permettere. Non ha nessuna autorità morale per dire a me quello che devo fare. Ha capito? Se lo metto a bene in testa. Sai cosa le dico? Io sono Moggi e lei è Taormina. Esatto, è proprio così, finalmente l'ha capito. Questa è la differenza, capisci? Appunto. Questa, esatto, esatto, quello che dico anch'io. Basta, allora. Basta, mi sono stufato. Questa è spazzatura, spazzatura. Buonasera. Spazzatura pure per lei, grazie, arrivederci. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Professore, arrivederci. Oh. Adesso devo ricucire un attimo con Moggi, è successo un casino. Professore, grazie, arrivederci. Grazie, professore. Perché dovete scusate, allora perché create queste condizioni? Scusate anche voi. Ma non ho capito, ma è possibile che io possa prendere da oggi l'indicazione di quello che devo fare? Ho capito, ma ha chiamato ma prima qua. Voi? No, scusami, professore. Ha chiamato prima qua quando l'ha sentita. Siccome ci conosciamo, mi ha detto fammi intervenire. Poi quello che succede, succede. Io mica rispondo di quello che dice Moggi. Certo, è certo. Ma che devo sentirmi dire da Moggi che devo stare in silenzio? Ma come? Di fronte a quella che è stata la storia del calcio, nella quale non voglio entrare perché non c'è una sentenza passata in giudicato nei suoi confronti e quindi non voglio. Va bene, ho capito, abbiamo capito. Va bene, porca miseria, che nemmeno possiamo fare critica a quello che succede. Beh, francamente. Ma lui si è irritato dice, perché lei ha detto da Moggi. Se me lo dice il presidente del CONI forse sto a sentire, ma se me lo dice Moggi no, Va bene, grazie professore, grazie. Grazie, ciao, a presto. La sempre la migliore. La zanzara. La zanzara che punge nel vivo. È una cosa indegna la sua trasmissione. Ma chi era questo qua, quello stronzo di quel tassista là? Chi era questo qua? No. Viva i tassisti, innanzitutto. Viva i tassisti e voglio dare il mio abbraccio. Diamolo insieme, David, diamolo insieme. L'abbraccio a quel tassista milanese aggredito per strada da un imbecille, da un pazzo. Tra l'altro uno che ha quasi 70 anni, che con delle bottiglie, con una forza inaudita, ha spaccato la testa a quel tassista semplicemente perché c'era stata una lite per strada. Adesso questo non ha niente a che fare ovviamente con la sicurezza a Milano, perché sono casi sporadici. Dunque chi fa le polemiche con Pisapia è un cretino, lo dico subito. Però voglio dare veramente la mia solidarietà totale. Ma questo pensionato che ha detto cos'era, un rom? No, che c'entra un rom? Era un milanese puro, era un nordico puro, no, un nordico puro. Ah, ecco. Belle sue curve. Andrea da Piacenza, buonasera Andrea. Ciao. Dimmi. Ciao, mi senti? Sì. Sì, volevo intervenire sulla magia, però dopo aver sentito Taormina sono rimasto veramente sconcertato perché è incredibile quello che ha detto, soprattutto sulla questione Cutri. Sì. Cioè, come si fa a dire che questo personaggio qui non ha nessun legame con la camorra, con l'andrangheta, che in realtà, voglio dire, lo scrivono in tutti i giornali, ci sono inchieste su inchieste su questa questione, e a fare il moralista con la questione del... Scusa, il fiatone ha appena fatto la scala. Sì. Dove stava ascoltando la radio lei? In macchina prima? Ero in macchina, poi è stato un po' in attesa, quindi sono salito su in casa. Ottimo, bisogna sempre mettersi, quando uno scende dalla macchina, devo dare qualche istruzione al popolo della zanzara, quando uno è in macchina a un certo punto si deve munire di radiolina, per cui uno scende, no? Scende e non perde nemmeno un secondo, cioè poi tutto, certo. Boom, zac, subito, secondo, mette la radiolina e poi sale a casa e continua la zanzara. Se poi incontra la moglie, Parenzo, cosa deve fare secondo te? Mentre stai lì con la radiolina, bussi e c'è la moglie che apre, qual è il comportamento da tenere, Parenzo? Dillo. Il comportamento ideale sarebbe quello di farle come cenno di stare tranquilla e farla avvicinare il più possibile allo specchietto della macchina, al vetro della macchina. In quel momento mettere immediatamente la quarta. Ma non hai capito, aspetta, io sto dicendo un'altra cosa. Lui è sceso dalla macchina, ha preso la radiolina e cerca di seguirmi però. Ha preso la radiolina, è salito a casa e sta ascoltando ancora la zanzara. Bussa a casa, apre la moglie. Teoricamente uno dovrebbe andare lì. Ciao cara, come stai? Che hai fatto oggi? Invece? Ah no, beh, semplicemente ho detto, appena la vedo. Fare subito il gesto che ha da fare dell'altro, no? Facendo anche sì, certo, con fare assolutamente, con possibilmente anche arrogante, quella che dice devi buttare la patata, zitta serva, e andare no, adesso zitta serva, no, cioè zitta così. Serva, lei come ha fatto, anzi come farà, così. Chi è, come si chiama, Andrea, come ho fatto, cioè, adesso... il telefono, la radio, non è che c'è bisogno di portarsi la radiolina. No, ho capito, ma lei entra a casa quando sente la zanzara, quando continua ad ascoltare la zanzara, cosa dice alla sua compagna? Intanto l'aspettavo, ho salutato, guarda, ho detto sono in diretta con Radio 24, devo andare a parlare un attimo. Ah, vai di là, mi ha detto che... Vai di là, io voglio sentire in diretta che cosa devi raccontare. E allora? Allora niente, la questione Madia, perché... La questione Madia, non sì. Non se ne può più parlare di Taormina, quello veramente degradato è lui. Sì. Chi? Taormina? Vabbè, degradato, vabbè, secondo lei è degradato perché dice che Museveni fa bene a fare quelle leggi contro ma i gay. Sì, vabbè. Dai, ma dai, è una cosa allucinante quello che ha raccontato, che è meglio avere un figlio andranghettista che un figlio frocio, è proprio il massimo di quello che si può sentire oggi alla radio. E allora? Allora, la Madia, io non sono d'accordo con te in nulla di quello che hai detto, perché se una persona si deve prendere un impegno così importante come recuperare 10 miliardi di spesa della riforma della cosa pubblica in pochissimo tempo, come... Il nostro Renzi sostiene, credo che debba essere concentrata più del 100% in quello no, che... No, ma ragazzi, non diciamo puttanate, però. Ma io no, Andrea, io per carità, lei ascolta la zanzara in macchina anche dopo, dunque per me è sul podio comunque. Però io lo sa che non sono lì a leccare il culo a nessuno, nemmeno agli ascoltatori, quelli fedeli. Per cui le dico che lei sta dicendo una enorme stronzata. No, la signora Madia magari non è la persona giusta per fare il ministro della funzione pubblica, e io sono d'accordo con lei. Magari è una raccomandata di ferro, ed è una raccomandata di ferro. Magari è stata molto fortunata nella vita perché ha l'amicizia giusta, e sicuramente è così. Detto questo, non la si può attaccare perché è incinta. Non mi dite questa cosa. Non mi dite questa cosa, dai. Non attacco nessuno. Sì, lei dice che deve essere concentrata e dunque non può partorire. Ah, sì, ma questo adesso avesse avuto il ministero dell'integrazione della gang, posso ancora capire che quello esserci non esserci non serviva niente come ministero. Ma che c'entra? Ho capito. Io sono. È vero che è un ministero delicato, ma uno può. Stare a casa, stare al ministero, anzi, fino al giorno prima. Ma è vero, io conosco un sacco di donne. Io certo ho avuto dei figli. È molto impegnativo questo. Ho capito, ma uno. Ho capito, ma un ministro non è che deve fare le scalate dell'Everest, amico mio. Uno sta là alla scrivania con i dossier, c'è la gente, i consiglieri e tutto. Non è che deve andare a fare le tre cime di Lavaredo. Su, dai. La mattina non è che sei fresco e pimpante per andare a fare il ministro. Vabbè ragazzi, però questo veramente, allora uno c'ha l'influenza, anche un uomo può avere un'influenza per 20 giorni e non può fare il ministro. Dura mesi questa fase qua. È al settimo mese, starà in ufficio fino al giorno prima. Se poi si assenta per 3 mesi, c'ha ragione lei. Se uno invece fino al giorno prima, fino al momento di partorire, resta al ministero al suo lavoro, poi a un certo punto quando c'ha le doglie, Parenzo, quando c'hai... Sì, ma non è che uno va a partorire, Cruciani va a togliere. Ma è così, c'è gente che sta al lavoro e poi va a partorire, succede questo, dai, su. Lei ha avuto i figli o no? Ha avuto i figli? Sì, ce li ho avuti, ho visto bene come che funziona. Vabbè, certo, a sua moglie gli è andata male, che gli devo dire? No, non è una che gli è andata male, è andata benissimo, però è un impegno molto importante che richiede del tempo. E se uno fa il ministro, la vedo molto difficile conciliare le due cose. Ma non è vero, ma queste veramente sono delle stronzate pazzesche. Vabbè. No, ma veramente sono delle stronzate. Sarà anche una stronzata, però io la penso così, la vedo in questa maniera. Se io devo essere concentrato al 110% a fare un certo tipo di mestiere, non posso avere altre distrazioni. Siccome partorire, non è che posso scegliere se farlo o se non farlo, se ormai sono incinta, non mi sembra che in questo momento sia la persona indicata. Poi magari non è neanche indicato per altre questioni che dicevi tu. Parenzo, vai tu, martella tu, dai. Hai argomentato perfettamente, è strana la tua lucidità di oggi. Ma è strana, è normale, io sono sempre lucido, sempre lucido. È un abominio quello che dice questo signore, che risulta avere anche dei figli. Mi sembra di aver capito che ha dei figli. È un abominio, non esageriamo, è una stupidaggine. No, è un abominio, perché questo signore qua ha anche dei figli. Quindi se io fossi la moglie di questo signore, ma lo prenderei stasera per l'orecchio, gli direi: guarda che per un mese io e te non facciamo l'amore, io ti prendo per un mese e ti metto in un'altra, vai a dormire in un'altra stanza. In un'altra stanza vai a dormire. L'intervento è stato del tutto inutile, potevi anche dire qualcosa di più intelligente. Sì, questo è vero in realtà. Cioè, nel senso, allora, che c'entra che lo manda a dormire la moglie da un'altra parte? Ma perché la moglie dovrebbe essere la prima a sentirsi umiliata, a sentire il marito che dice delle robe simili? Cosa? Ma non sto mica dicendo che non è che è facile farlo, è un'altra questione. Lui dice, siccome il ministero è un lavoro molto importante, eccetera, eccetera. Una cosa che ferisce milioni di donne. Vabbè, adesso non esagerare con sta retorica, dai, pure tu, sennò veramente mi fai passare dalla parte della Comi e di Salvini, se cominci con sta retorica. Io ho detto semplicemente che una donna incinta è perfettamente in grado di fare ministro, tranne una settimana, se vuole. Certo, se si assenta un mese, 2 mesi, quello no. Un attimo solo, aspetta. Pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è pazzesca. La zanzara. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Oh, sleeping with mosquitoes. sentito, mi sono fatto male, Parenzo. Mi sono sentito quasi tutta la conferenza stampa del presidente dell'Uganda. No. Tu pensa te come sono ridotto, sì. Ma sei malato proprio. Sono malato, sono malato. No, perché io, questo ovviamente un personaggio repellente, che addirittura era convinto che l'omosessualità fosse una cosa, come dire, no, di nascita. E dunque dice: non posso fare questa legge, non posso firmare questa legge, per cui non è colpevole se nasce omosessuale, se nasce frocio, se nasce gay. Sarebbero, no, applicate delle sanzioni. Invece poi, no, secondo me bisogna rompere le relazioni con l'Uganda. Cioè, allora, tutti i paesi che continuano a fare commerci con l'Uganda, compresa l'Italia se li fa, andrebbero, cioè, messi al bando pure loro. Per cui non siamo ipocriti. Con la Russia facciamo affari e poi invece facciamo le proteste ridicole alle Olimpiadi. Dobbiamo essere coerenti fino in fondo. Anche sull'Uganda, paese che non conta nulla, ovviamente. Appunto, con l'Uganda sarebbe facile fare una cosa di questo tipo, però, è anche molto ipocrita. Invece fatelo con i russi, fatelo con gli arabi. Il signor Museveni ha chiesto, non so a quali maestri a quali professori universitari, che gli hanno detto no, che in realtà si diventa gay per i comportamenti, si diventa gay successivamente, magari per l'emulazione o per altre cose. Dunque sì, mi sono convinto che gli occidentali ci contaminano troppo, non dobbiamo fare come gli occidentali. E allora ha fatto una legge in cui si passa dai 14 anni all'ergastolo, capito? Per chi compie atti omosessuali, per chi fa propaganda omosessuale, eccetera, eccetera. Ed è arrivato a dire delle frasi, signori miei, incredibili. La bocca è fatta per mangiare e per baciare, il sesso orale omosessuale, non quello eterosessuale, fa venire i vermi. Le lesbiche sono affamate di sesso a causa di matrimoni con uomini sbagliati. Ma mandatemi qualcos'altro in inglese, che si capisce benissimo, di questo campione della democrazia, Museveni, il signor Museveni. It's a very serious matter. Even now I have not really fully understood it, that you can fail to be attracted to all these beautiful women here and elsewhere, and you are attracted by a man. That's a very serious matter. It means there's something really wrong with you. Non capisco come non puoi essere attratto da queste bellissime donne, da queste donne meravigliose, capito? Dai, cioè uno fa ridere, ma è veramente penoso. Allora, mi ha mandato prima un messaggio Vladimir Luxuria, dicendo, ecco, con cui ho fatto una polemica, ma io non mi tiro indietro. Ho detto, bisogna avere... Sciocca. No, non è una polemica sciocca, secondo me è una polemica vera, perché viene ripresa anche su... Hai detto vai a farti uccidere. No, non ho detto vai a farti uccidere. Ho detto, uno, il coraggio lo deve avere fino in fondo. Io non ho escluso che lui ce l'abbia il coraggio. Io ho detto, no, lei intanto, lei, vabbè, è lei. Ma lei è uguale, per me è uguale, sa benissimo che non ho problemi. Ma no, ma lei, va bene, Vladimir. No, lei è Vladimir. Va bene, d'accordo, lei d'accordo. È una signora. Sai benissimo come la penso su questi argomenti. Allora devi essere. Va bene, io ho detto, lei, io non ho detto che non ha il coraggio. Ho detto che è più facile andare in Russia alle Olimpiadi che andare a fare una bella protesta in Uganda, dove c'è il rischio che ti arrestino. Vladimir, ciao, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Allora, posso spiegare intanto qual è stato il senso, così, della mia manifestazione a Sochi, perché se non sono state scritte e dette di ogni. Beh, sei andato per fare un servizio per le Iene, sei andato allora, per fare un servizio per le Iene. Allora, io erano da tanto tempo che vedevo sulla rete dei servizi su YouTube di ragazzi che vengono, adolescenti, che vengono adescati da gruppi organizzati in Russia. Vero, vero. Vengono picchiati, umiliati, filmati e vengono mandati filmati in rete. Vero, vero. Tutto questo nell'indifferenza delle forze dell'ordine. Mm. Aggiungiamo a questo, caro Cruciani, sì, il fatto che questi ragazzi non possono andare in televisione a denunciare queste cose. Perché è propaganda. Non possono denunciarlo pubblicamente, perché c'è una legge approvata all'unanimità dalla Duma in Russia, sì, che dice che parlare pubblicamente di omosessualità è reato, sì, punibile o fino a 12.000 euro o con 15 anni. Però queste di cose qui le sappiamo, Vladimir. Allora, ti posso dire una cosa, Giuseppe? Io sono andata lì a difendere anche i colleghi radiofonici, caro Cruciani. Cioè, in che senso? Ma quello che tu fai tu in Italia, che tutti i giorni parli di omosessualità, cosa che ti garantisce, secondo me, anche un certo ascolto, i tuoi colleghi russi non lo possono fare in Russia. Ma io sono contro queste leggi di Putin, eh. Io sono contro. Ho fatto la manifestazione ridicola, come la chiami tu, sì, anche per tutelare il diritto all'informazione, perché in Italia nessuno ha mosso il culo su questa cosa, perché in Italia il nostro ex premier Letta è andato a Sochi a celebrare l'autocelebrazione dello zar Putin a Sochi, promettendo che avrebbe detto qualcosa sulla discriminazione sessuale e non dicendo un cazzo invece su questo. Però... perché non ha le palle che ha avuto io ad andare lì, perché è facile fare le rivoluzioni a casa col pigiama, ma rischiare la propria libertà e non so cosa andando lì, ma che la poi... vuoi chiamare pubblicità ridicola come ti sei fai? Andata per una sei andata per una trasmissione, Vladimir, sei andata per una trasmissione televisiva, dunque non hai rischiato nulla, non hai rischiato niente. Caro Cruciani, dai. Io mi ribolliva la rabbia dentro. Ma fai bene ad andare, ma se ho avuto la telefonata delle Iene che mi chiedevano, noi andiamo lì a fare un servizio, un reportage sull'omofobia di Putin, con due inviati delle Iene, mi hanno chiesto, Vladimir, ti andrebbe di accompagnarci? Io, Cruciani, mi sarei sentita di merda se gli avessi detto di no. Vabbè, ma questo non c'è. Sei andata là perché volevi fare un servizio per le Iene, punto. Basta, per carità, poi sicuramente ti fa schifo Putin, come fa schifo a me per queste leggi, ovviamente. Però non ti devi stupire se poi ti ferma la polizia là. Il fatto che si mobiliti la Farnesina per una cosa del genere, io l'ho trovato assurdo. Non, io non faccio i paragoni con i Marò, queste cose qua, non li faccio nemmeno. Allora, pure questa stronzata del paragone con i Marò, che no, ma questa è una stronzata. Questa è una stronzata. È unica perché si tratta di cose diverse. Ti posso dire che io, da italiana e da pugliese, quando vedo gli occhi disperati delle mogli dei Marò, ovviamente vorrei anch'io che i Marò non venissero processati in una nazione di una cultura giuridica incivile come l'India, non solo perché c'è la pena di morte. Però non hai rischiato nulla lì, Vladimir. Vladimir. Invito tutti coloro che hanno a cuore la questione dei Marò a fare come me, ad andare in India a manifestare. Però scusami, hanno le palle, non hai, hanno le palle. Non hai, sono andato pure con le Iene, tesoro mio, ma io stavo i due inviati delle Iene e un operatore. Dai, ma so benissimo che poi siete andati a fare baldoria nei bar, dai, su, l'ho saputo da gente che conosco, dai, Vladimir, su. Ma dai, siete andati a fare i servizi nei bar facendo, bevendo, divertendovi come giusto che sia. Ma non è il coso, ma non è la barbarie in Russia, non c'è il gulag. Dai, su, non smettiamola. Allora, Cruciani, invito a una cosa: vai in Russia tu, se hai le palle, invece di fare il rivoluzionario solo dagli studi della tua radio a Milano. Ti invito a una cosa. Ma magari. Cruciani, ti invito a una cosa: mi devi dire se o no. Cruciani, io ti invito ad andare in una radio ospite in Russia a parlare di sessualità. Cruciani, c'hai le palle? Magari, sì, ce l'ho. E tu ce l'hai le palle di andare in Uganda? Ce l'hai le palle? Io ce le ho, caro. Cioè, perché che vuoi fare? Che vuoi fare in Uganda? Allora, su queste cose bisogna essere molto cauti, perché non bisogna troppo. Intanto, scusami, Vladimir, scusa un attimo, voglio dire che è morto purtroppo il tassista aggredito a Milano. È arrivata questa notizia, dispiace a tutti, abbraccio la famiglia, a tutti i colleghi che ci seguono, tantissimi tassisti a Milano. È stato un episodio di cronaca, un episodio che non ha nulla a che fare con il clima a Milano, eccetera, eccetera. Non c'è la sicurezza, non è che adesso si devono armare di pistola i tassisti, non cominciamo a dire stronzate. Comunque, abbraccio fortissimamente la famiglia e tutti gli assisti milanesi. Allora, Vladimir, non ho capito, ce l'hai le palle per andare in Uganda o no? Io ho le palle per fare tutto, perché le persone come me hanno sempre avuto coraggio e l'hanno sempre mostrato. Io sono stata a Mosca, l'unica parlamentare italiana che è stata a Mosca quando c'era il Gay Pride, e mi sono presa le botte nel 2007. Io sono andata a Istanbul in Turchia, perché lì c'è un problema enorme di violenza contro le donne. Ma in Uganda, dove hanno pubblicato, guarda, un giornale ha pubblicato la foto di 200 persone oggi, ricordiamo allora, questo, 200 persone omosessuali o presunti tali, dicendo li abbiamo identificati, un giornale, ovviamente la libertà di stampa in Uganda non è che sia proprio il massimo, 200 con foto pubblicate, nomi e cognomi di persone presunte omosessuali messi al bando. C'hai il coraggio di andare là o no? Ma io c'ho il coraggio di fare tutto, caro Cruciani, a differenza e allora, tua. Ma che è differenza allora, mia? Allora, io c'è un problema in Uganda, c'è un problema in Iran, c'è un problema in India, c'è un problema in Afghanistan. No, ma con l'Uganda che vogliamo fare? C'è un problema in Arabia Saudita. Allora, queste sono cose che vanno organizzate bene, perché se adesso ti dico che vado in Uganda, è che se quando vado a chiedere il visto, non me lo danno, hai capito? Ma non devi andare col visto, non devi andare col visto. Informati, mi avanti! Per andare in Uganda ci vuole. Ma lo so che non devi andare col visto, bisogna fare come facevano in Sudafrica quelli che combattevano contro l'apartheid, infiltrarsi, andare lì e mettersi in piazza col manifesto gay e bello, il manifesto a Kampala, certo, come no, certo. In Uganda bisogna arrivarci, mio caro, ci sono dogane, non fare lo stupido, e ci vogliono i visti. Poi se no, se vogliamo raccontare le favole, io te le racconto pure. 10.000, bisogna avere un visto, come bisogna avere un visto per andare in Uganda. Capito? Quindi bisogna fare le cose che ti fanno bene, se no faccio, se no ti posso pure fare quella che dice voglio andare, ci vado il mese prossimo e col cazzo che mi danno il visto. Aspetta, capito? Un attimo, che adesso innanzitutto voglio chiederti una cosa, ma grande dignità, dimmi. Guarda che con grande dignità Vladimir Luxuria ti sta spiegando e ti ha detto che per fare questi blitz e per ottenere dei risultati ci vuole intelligenza. Quando Maurizio Turco andò sulla piazza di Hanoi a sventolare la bandiera americana, oddio, questo Maurizio Turco, non aveva coglioni. Detto a Radio Radicale che sarebbe andato là, lo ha organizzato. Ma certo, va bene, e d'accordo. Tu dovresti, anziché stare con il culo al caldo a Viale Monterosa a fare le battaglie finte battaglie per i diritti degli omosessuali, ma dovresti che finte? Io ce l'ho fatto. Andiamo, una cosa, Cruciani, togliati il pigiama. Ma quale pigiama? Che sei impazzito? E vai a Mosca a fare un programma in radio sull'omosessualità. Ma se mi invitano ci vado di corsa, non hai capito? Se mi invitano ci vado di corsa. Beh certo, non è che posso mettermi lì sulla piazza col baracchino radiofonico a fare una trasmissione. Vladimir, dai, su, lo capisci pure tu. Se c'è una radio libera, qua Radio 24 c'ha tutti i canali per una radio libera di Mosca, ecco, che mi invita per tuonare contro le leggi di Putin. Però devi andare lì, però non di qua. Ma sì, ma ci vado, ma non esagerare, che t'hanno fermato quattro poliziotti, non è successo niente, t'hanno offerto un caffè, dai, su, fermato in Russia, arrestato. Ma che mi hanno offerto un caffè? Che hanno fatto? Guarda, non te lo... Guarda, io posso dirti che me la sono fatta addosso, va bene? Cioè, mi sono terrorizzata la seconda volta. E perché? Perché non sapevo che cacchio facevano. Ma che dai, cosa sarebbe su, stato. Ma sei una persona ex parlamentare. Allora, se non credi in quello che ti credo che solo l'intervento del consolato abbia sventato il mio arresto. Apro e chiudo una frase a tutti quelli, compreso oggi Giordano, che l'ha scritto. Giordano l'ha scritto, sì. Che non è costato un euro, perché gli uomini della Farnesina erano già lì, perché quando ci sono degli eventi internazionali come il Sochi, mi hanno spiegato dopo che già c'è l'unità di crisi, quindi non è stato speso un euro in più per la mia liberazione. Lo dico a tutti quelli che avrebbero sperato di che io rimanessi in carcere. Ci tocca pagare gli show di lussuria, questo ha scritto Mario Giordano. Non è assolutamente vero. Poi permettimi di dire una cosa. Innanzitutto voglio sapere, Vladimir, se ti vuoi candidare al Parlamento europeo. No, ma che candidare? Non mi candido. Un attimo solo, che c'è una telefonata importante che adesso dobbiamo bastonare duro, aspetta. Insieme a te lo voglio fare. Ma chi c'è? Taormina? No, che Taormina, no, guarda che se mi risponde facciamo il botto. Cioè il botto no, però... No, non c'entra niente, figura se ti metto con Taormina, no. Ti fai pubblicità, ecco. No, che mi faccio pubblicità? No, non è quello. L'hanno detto di me? No, non è quello, poi te lo dico, se non risponde poi te lo dico, ti mando un messaggio e ti dico chi era, perché ci sono persone che lavorano per l'Uganda qui in Italia. Io sono avvelenato su questa storia dell'Uganda, eh. Sì, ma scusa, il ministro degli esteri potrebbe pure fare qualcosa nostro, lo devo solo fare io per fare le ammette. Il nuovo ministro degli esteri dovrebbe subito dire qualcosa, ma siccome l'Uganda non conta un cazzo, capisci? Visto che prima Letta non ha fatto niente, sono stata l'unica a fare qualcosa. Senti, ma pure Renzi sui gay non mi sembra proprio il massimo della vita. Ha contrattato con Alfano sullo Ius Sole sui diritti civili, ma dai. Cioè non farà nulla. Che cos'è che volevi dire prima? Allora, io prima ho sentito, credo che fosse Taormina. Sì, Taormina l'ha detto di tutti i colori, sì. Allora, siamo tutti liberi di dire che siamo contrari a una famiglia composta da due genitori. Questa è libera espressione del pensiero, per carità del Dio. Tutti possiamo dire la nostra opinione, no? Un principio costituzionale questo. Però, scusa, anche se ci sono già 100.000 bambini, figli, è una realtà già esistente, lui può dire liberamente che è contrario. Ma io ho sentito una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle. Ce l'ho detto, meglio una famiglia di andranghepisti. Perché hanno senso della famiglia. Guarda, io ti rispondo solo con una cosa. A Cassano dello Ionio, il 19 gennaio, c'è stata un'esecuzione, è stata bruciata una Fiat Punto. Dove c'era un bambino di 3 anni. Sì. Voglio solo dire questo. No, ma fai bene su questa cosa qua. Ciao Vladimir, a presto, ciao. Marco da Genova, dai Marco. Salve Cruciani. Ora devo dire una cosa. Allora, battagliamo David con Vladimir. Abbiamo avuto momenti di scazzo per vari motivi, però non è una persona che si offende, perché E non è una persona che dice no, io da quelli là non ci vado perché mi attaccano, no, magari. È una persona che vuole intervenire, affronta le questioni, ti dice in faccia quello che pensa, ma non è che ti considera lì perché siccome l'hai attaccato ti snobba, capito? Ti elimina. No, questo è vero, certo. Però volevo dirti questo. No, però fammi sentire un attimo Marco da Genova, per favore, dai. Niente, volevo fare un intervento sulla battuta, secondo me abbastanza inappropriata di Parenzo sui leghisti o sul fatto che sono dei tarati mentali. Veloce però, rapido. Non sono leghista e a Pian del Re ci vado a fare delle gite intorno al Viso. Dare dei tarati è soltanto perché pensano in maniera diversa, mi sembra un po' eccessivo. Magari tirare il freno a mano e dire ho detto una cazzata. Ci sono molti leghisti incazzati. Parenzo, dai, forza, che volevi dire? No, volevo dire che abbiamo questa roba della Lega. Vabbè, abbiamo già chiarito, tu sappiamo come la pensi, poi allora? Dio po', l'ampola. Vabbè, poi? Quello che mi interessa è invece che non abbiamo abbastanza condannato quello che è detto Taormina sulle famiglie omosessuali e l'andrangheta. Ma l'ha detto Vladimir prima, l'ha detto Vladimir. No, ma noi. Ma noi, ma che dobbiamo dire noi? Ma noi ogni tanto siamo lì. Ma noi ogni tanto siamo lì a recepire. Io gli ho fatto la domanda apposta perché dice vediamo fino a dove arriva e guarda dove è arrivato. Noi siamo arrivati alla fine per oggi. A domani 18:30. Ciao. Ah, e vabbè, vanno a trance. Se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. Nessuno può, diciamo così, criticare i gusti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.